We'll be right back. colpa. Benissimo, dopo le prove per le cuffie al suono di polpa polpa, cambio di cuffie, viene un polpa o burp. Possiamo rientrare dopo. Oye, come va di Carlos Alberto Santana, da non confondere con Mario che gioca nel Genoa ed ha un glorioso passato nella Fiorentina. Allora, adesso parliamo di What is Life, che è una canzone di George Harrison, secondo singolo estratto dall'album All Things Must Pass per il mercato statunitense. Esso fa seguito al fortunato My Sweet Lord. Per la registrazione Harrison si servì di un personale di musicisti prevalentemente britannici, molto campanellistica questa scelta, molti dei quali già avviati con successo la carriera musicale. Originariamente pensata per Billy Preston, è stata prodotta da George Harrison e Phil Spector, come del resto tutto l'album All Things Must Pass, di cui apre la facciata B del primo disco. What is Life? George Harrison. Thank you. ed era George Harrison con il Waterfly. E adesso andiamo a parlare dei Creedence e di Waterfly, con un lavoro basso punto grande. Strano! Rinnova! Pubblicato nel 1970 da una serie di Rex. Strano! È stato il secondo singolo estratto dall'album Contro Waterfly, e oggi è stato il numero 4 della Billboard Hot 100. Strano! Numero 3 della UK Single Chart, come la tutti questi Up Around the Band. Il brano ha una sua battuta contro la guerra del Vietnam e diventò uno dei classici del gruppo, condotto da un riff di chitarra elettrica e armonica. Run to the jungle, Creedence Waterfly. Strano! Ed erano i Creedence e adesso andiamo avanti, tocca a me e... strano vado a parlare dei Velvet Underground e della loro Sweet Jane, uno dei riff più famosi nella storia del rock, un brano favoloso con le stigmate dei santi e con tutte le carte in regola per diventare un hit in assoluto. Era quello che volevano le case discografiche, perché l'esordio dei Velvet Underground era stato sì amatissimo, ma da pochissimo, e anche i dischi successivi erano andati un po' maluccio. Così i discografici dissero: fate ciò che volete con il prossimo album, ma riempitelo di hit. Eh sì, dissero proprio così, Loaded with Hits. Per giocare su questo comandamento, i Velvet intitolarono Loaded l'album del 1970, che fu riempito di grandi canzoni come Rock and Roll, New Age, I Found a Reason e di un solo potenziale hit da classifica, proprio Sweet Jane, popolata di quei personaggi strani che gravitano attorno a Lou e alla Factory di Warhol in quegli anni. In realtà i contrasti interni alla band ne avevano già decretato virtualmente lo scioglimento, Lou Reed abbandonò la registrazione prima della fine per poi lamentarsi. Velvet Underground, Sweet Jane. No? No, no, no, dovrebbe stare a me. Mi sono perso un attimo con il filo delle cuffie. Oh, questo filo ti vuole un bene dell'anima o io veramente? No, mi dà proprio urto al sistema nervoso. Allora, adesso parliamo di Alice Cooper e la sua I'm 18, che è fra l'altro il suo primo singolo del re del rock horror show. Appunto, è una canzone di Alice Cooper estratta dall'album Love It to Death. Viene pubblicata come singolo, appunto, 3 mesi prima dell'uscita dell'album e diventa uno dei maggiori successi di Alice Cooper. Della signora Alice Cooper. La rivista Rolling Stone mise il brano al numero 482 nella sua lista delle 500 migliori canzoni di sempre. Il gruppo thrash metal Anthrax ne rispose con una cover nel loro album d'esordio Fistful of Metal del 1984. I Creed, invece, nel 1998 resero omaggio a questo pezzo inserendolo nell'album The Faculty. I'm 18, Alice Cooper. Andiamo a parlare di Ohio, è la parte di protesta scritta da New Wang, che è un posto di trauma incessante, polizia di tutti, alla Kentucky University il 4 maggio del 1970, ed eseguita da Dolphin City nel settembre. Grande scritto, la parola stessa di Ohio, dopo aver vissuto per la chiesa di tutti i studenti, durante i quali sono stati rimasti arrivati in 34 studenti, durante i giorni di Paola Smedes. Quando oggi si riesce quando si trova in silenzio per il figlio di Los Angeles, la sera del 21 maggio 1970, la canzone era già dall'ultima. E qua stesso era uscita dal debutto le poche tutte. Durante la stessa sessione la band è venuta anche da colpito del singolo Lanti, il chitarrista Frank Costa, Oxygen, Vista e Silenzio. Il passato di comunicare la propria eliminazione per i fatti della pista del segno vocale dei giochi presso la pubblicazione del singolo. Nelle note interne alla polizia segreta, il Kang affermò come i giochi della pista del segno che fossero stati probabilmente la più grande e di quelle mai ottenute per la relazione degli istituti di cultura americana. E ricordò che il terzo gli piace quando si deve recuperare il brano. Il testo del brano, che è fatto un errore, composto da un errore del saggio, non so se la parte del compagno della polizia che trova incidenti manifestanti con prova dei viaggi. Specialmente in sezione forse funerario, quattro morti funerari, impedito più volte nel corso della canzone. Le parole di Soldier e Nixon Coming, ovvero soldatori di razza e Nixon sta arrivando, si riferiscono agli agenti della Guardia Nazionale dello Stato Federale che uccidono gli studenti sul territorio. La cui morte è data attualmente al presidente degli Stati Uniti dell'epoca, ovvero il fascista. Una volta però, si affermò quanto fosse stato coraggioso contro la parte di Gander, il fatto di criticare direttamente il regista della canzone. Come mai è avvenuto in questa volta? Dopo questa canzone, la fonte di cultura americana costruirà il gruppo dalla propria parte, dando i quattro musicisti, lo stato di leader e portavoce delle istanze liberitarie di movimento per tutto il determinato successivo. Il brano viene pubblicato sul singolo di Side Find the Cost of the Season di Steam, raggiungendo la posizione numero 14 della classifica statunitense di Billboard Hot 100. Due parole. Basta! Ed era Ohio di Crosby, Stills, Nash e Young. Si è fatto male? No, è Ohio la canzone. Sì, sì, vabbè, adesso era il brand disco. Sì, grazie Wiki Nanno. Vado via? Sì, vado via? Vado vai via. Via, vai. Adesso Southern, un brano musicale scritto ed interpretato dal musicista canadese Neil Young, sempre lui. Strano. Contenuto nel suo album After the Gold Rush del 1900, indovina? Strano! 70. Le parole che compongono il testo di Southern Man sono una vivida e sentita descrizione del razzismo nei confronti dei neri del sud degli Stati Uniti d'America. Nel brano Young racconta la storia di un uomo bianco del sud e di come egli maltratti e disprezzi i propri schiavi negri. Retoricamente Young chiede quando il sud bianco pagherà infine il proprio debito verso la popolazione di colore, sul sangue della quale ha costruito le proprie fortune, cantando I saw cotton and I saw black, tall white mansion and the little shacks, Southern man, when you will pay them back, ho visto il cotone e ho visto il nero, alti palazzi bianchi e piccole baracche, uomo del sud, quando li ripagherai per tutto questo? Inoltre nel brano si fa menzione delle pratiche di incendiare delle croci di legno da parte del Ku Klux Klan. Polemiche. Il gruppo Southern Rock Lynyrd scrisse, non è facile questo da pronunciare, no, Lynyrd Skynyrd scrive la celebre canzone Sweet Home Alabama in risposta ai brani Southern Man e Alabama, altro pezzo di Neil Young fortemente polemico nei confronti del razzismo degli stati del sud, incluso nell'album Harvest del 1972. Bravo. Nonostante, come facevi a saperla che non era la scaletta? Vabbè, nonostante, quando leggo io è una cosa, nonostante nella canzone degli Skynyrd venga affermato I hope Neil Young will remember a Southern man don't need him around anyhow. Bravo! Grazie. Spero che Neil Young si ricordi che un uomo del sud non ha bisogno di averlo tra i piedi. Young stesso ha sempre dichiarato di essere un grande fan sia di Sweet Home Alabama che di Ronnie Van Zant. Southern Man, Neil Young. Neil Young, Southern. Adesso vi parlo ancora una volta di George Harrison. Oggi me l'hanno affibbiato, è una responsabilità che mi assumo volentieri. Primo singolo di un Beatle a raggiungere il primo posto delle classifiche amnertkane, è scritto così e io lo rileggo, fa conto delle classifiche americane. Harrison lo scrisse pensando a Krishna, di cui era credente, dopo aver scoperto l'India e l'induismo attraverso il maestro Ravi Shankar, ma pensando contemporaneamente a una canzone dove si parlava del Dio cristiano. Oh Happy Day è la versione degli Edwin Hawking Singers. Fa parte dell'album All Things Must Pass, titolo emblematico del suo fatalismo. Smetti? Per uno che aveva fatto parte del gruppo più celebrato della storia. Quando uscì, vendendo oltre 6 milioni di copie, la gente e i critici si accorsero di aver sempre sottovalutato Harrison. Il vecchio modo di dire i Beatles erano formati da due geni, uno onesto, mestierante ed un gorilla dietro la batteria. Non aveva più ragione di essere. My Sweet Lord, che Harrison scrisse a Copenaghen, meta molto ambita dai tifosi juventini da ieri sera, nel dicembre del 1969, pensando ad affidarla a Billy Preston, fu al centro di una battaglia legale perché Harrison fu accusato di plagio di un brano degli Chiffons, He's on Fine. Harrison fu il primo a riconoscere che i brani erano praticamente identici, ma si difese in modo convincente sostenendo che il plagio era involontario, perché altrimenti sarebbe bastato cambiare due note per mettersi al riparo da ogni contestazione. Fu quindi condannato a pagare $1,600,000, ma per le spese e per le brutte sorprese per lui non erano ancora finite. Non molto tempo dopo l'inizio del processo si accorse che il suo manager di allora, Alan Klein, faceva il doppio gioco, difendendo da un lato il suo cliente, ma dall'altro comprando i diritti di He's a Fine. Perché? Semplice. Se Harrison fosse stato condannato a pagare un risarcimento, quei soldi sarebbero finiti a lui. My Sweet Lord, George Harrison. Thank you. George Harrison con My Sweet Lord. E adesso vi andrò a parlare di I Heard It Trug di Grapevine, che Valerio ci sa dire che Grapevine significa... me l'ha detto prima. No, l'ha registrata? Questa è registrata la frase? Questo non lo so, io settimana prossima lo mando in loop per un'ora. Non lo so. Una canzone... Grappolo di uva. Non so, me l'hai detto te. Buoni. È una canzone... Provi, doveva dire la sua, capito? Tra un po' c'è il periodo della vendemmia. Posso? Questo splendido momento radiofonico. Decide lui, capito? Chiama le cantine e gli dà il via. Via! Tra tutti, via, lanci in mezzo a campo. La trombettina. Sì, mi dai via. Dai via, col corno. Una canzone scritta da Norman Whitfield e Barrett Strong della Motown Records nel 1966. Bravo. Bravo, Lucarone. È resa famosa da Marvin Gaye in un singolo pubblicato nel 1968. Il singolo immediatamente dopo il lancio schizzò in testa alla Billboard Pop e vi rimase per ben 7 settimane, diventando nel periodo 68-69 il singolo di più grande successo rilasciato dall'etichetta Motown. La registrazione di Gaye da allora è diventato un classico soul e nel 2004 la canzone è stata inserita dalla rivista Rolling Stones nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. Oltre ad essere stata interpretata varie volte da artisti della Motown, la canzone è stata oggetto di una serie di cover, tra cui i Creedence, versione che vi faremo ascoltare, che ne hanno fatto un'interpretazione di ben 11 minuti per il loro album del 70, Cosmos Factory. I Heard It Trug the Grapevine, i Creedence Clearwater Revival. ancora una volta il Fidesz per chiudere i sì, poco poco. Attenzione a chi si interessa di gioco del pagamento. Abbiamo parlato fino adesso, ma non voglio ritornare nel discorso. No. Sta coprendo la vena. Ma posso andare con la è incredibile come nel caso della scena la canzone che è nata spontaneamente nel camerino di un teatro durante la prima della strada. Quindi mi dicono che hanno visto anche Napolitano, il presidente della Repubblica, partecipare. Sono onorato che gli italiani abbiano inventato la mia canzone. Sono un compositore del presidente di tante della gente che si accorge di una melodia. Solo in quel momento tende a far parte del pantheon della musica. È qualcosa che nessun cantatore può verificare, soprattutto in questi anni progettati dalle coppie di chiesa. Mi intriga anche il fatto che la maggior parte della gente che fa po po po po po po po po po po po po po po siamo un po' in contropiede per tornare in tema. Parliamo ancora di calcio, dai. Dai. Allora, volevo finire per le consigli di due citazioni, ma è tecnico, giusto, giusto, perché lei è infatti la chi l'ha scritta? Valerio. Valerio? No. John Fogerty. Allora, no. Inizia, sicuramente potete rifare con voi, No, lo volevo, vabbè, mi raccomando, mi ha smascherato. Mi intriga anche il fatto che la maggior parte della gente che fa poco, rocco, poco, non ha assolutamente idea di chi abbia scritto quelle note. Che era Jack White, il cantante dei Dark Side. Così l'abbiamo detto anche a tutta la gente che si può ascoltare al territorio e cantare una canzone, non sapeva assolutamente. No, chatto. È troppo alta, basta. Scusate, volevo ricordare una data importante per la storia del rock and roll, visto che oggi è l'anniversario della scomparsa di Jimi Hendrix, il chitarrista più forte della storia del rock and roll, se non della musica. Direi un applauso a Jimi. Grande Jimi Hendrix, grandissimo. Abbiamo messo credo sì, tutte le canzoni, puntate, tutte sì, le sì. Canzoni abbiamo messo. Vedete il brano 3, abbiamo concluso. Eh sì, abbiamo finito la puntata di apertura di questa seconda stagione di Ottario Rock and Roll. Già, è vero, finiti gli anni 70. Scusami. Posso andare con la chiusura? Ok. Ragazzi, chiudi anche lui. Chiudi, però, ma chiudiamolo. Ragazzi, no, ti prego, no! No! No! Sì, rigore! No! No! Rigore! Rigorelli! Le fa tutte a memoria, veramente. Vabbè, raga, ricordiamo come sempre la pagina Facebook, il Time Rock and Roll, Radio F Vaticana. No, l'ultimo acquisto che ho fatto. Da Marco. Io andrò a vivere in cima a un monte in Tibet, che ti giuro non vuoi sentire parlare di calcio. Ci vengo sicuro, guarda. Ma invece è bello. Quindi c'è stato, gli è piaciuto. Sì. Quindi gli è piaciuto. Lì era lì, no, ganso, però, ora invece fa in piedi a torso nudo. Dai, ricordiamo allora la pagina Facebook il Time Rock and Roll Radio F Vaticana, dove già da domani potrete trovare il podcast di questa puntata, quindi se ve la siete persa o la volete semplicemente riascoltare, linkeremo il podcast sulla pagina Facebook e sempre sulla pagina Facebook il contest, esatto, ritorna il contest, le 5 canzoni che noi scegliamo e voterete la vostra preferita e la vincente andrà in onda. Ci risentiamo mercoledì prossimo, come sempre, dalle 7 alle 8. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Gol del Napoli! We'll be right back.